corri a vedere chi è arrivato giù nel prato delle fiere. Ieri non c'era ancora niente, oggi è già pieno di gente. I bambini che barattano con le fragole e le giostre, ai giostrai che hanno 9 figli, tutti con nomi di fiori. Ma la mia bella resterà dietro al bancone fino a sera e giù in balera. Cercherò poi un'altra donna per ballare. Corri a vedere chi è arrivato giù nel prato delle fiere. Ieri non c'era ancora niente, oggi è già pieno di gente. Un pappagallo esce dalla gabbia solo per predire l'avvenire. Intanto i vecchi ridono e stanno a guardare i bambini che barattan con le fragole e le giostre, e i giostrai che hanno 9 figli, tutti con nomi di fiori. Ho trovato una signora che è capace di ballare, però è vecchia, non ti devi ingelosire. A vedere chi è arrivato giù nel prato delle fiere. Ieri non c'era ancora niente, oggi è già pieno di gente. Il cantastore insegna nuove melodie alle ragazze. Un bimbo che ha già speso 5 lire al banco del torrone e alla pescheria reale. Pesca bene, pesca male, vicino al ciarlatano che sta lì pronto ad aprire. Al pappagallo che esce dalla gabbia solo per predire l'avvenire. Intanto i vecchi ridono e stanno a guardare i bambini che barattan con le fragole e le giostre, ai giostrai che hanno 9 figli, tutti con nomi di fiori. Quando arriverà il momento di cacciare gli ubriaconi, mi ritroverai qui fuori ad aspettarti. Senza dire una parola, senza musica, noi due si incontreranno i nostri sguardi, le mie mani nelle tue, danzeremo nella strada tutta nostra, e sarà come il primo giro della giostra.